GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Turismo in primo piano in questa breve edizione domenicale, innanzitutto con la situazione a Lignano, capitale regionale in questi giorni per le presenze moltissime legate alle festività del Corpus Domini in Austria e Germania. Per la località balneare è stato un fine settimana di grandi numeri. Poi a Trieste, con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, ci sono nuovi collegamenti legati alle crociere. A Gorizia nel pomeriggio si inaugura il nuovo lapidario nel Parco della Rimembranza. E nello sport, serata di basket internazionale a Pordenone, in campo la nazionale femminile azzurra contro la Germania. I temporali degli ultimi giorni non hanno frenato la voglia di mare e vita notturna che ha portato tanti turisti a Lignano. Presenze record soprattutto per quanto riguarda quelle di lingua tedesca. In queste ore è in corso un graduale rientro. Domenica di grande via vai a Lignano Sabbiadoro. Oltre 2 chilometri di coda in uscita già dalle 9 del mattino al casello di La Tisana. Sono per lo più austriaci che tornano a casa dopo il ponte del Corpus Domini, per loro iniziato già giovedì. Chi viene da Vienna ha oltre 5 ore d'auto davanti a sé, ma si leggono anche tante targhe tedesche e polacche. Un ponte da tutto esaurito o quasi, confermano diversi albergatori, forse più di quello di Pentecoste, azzarda Alessandro Tollon, rappresentante di Confcommercio Federmoda. Due clientele diverse, feste dei ragazzi la prima, pienone di adulti e famiglie per il Corpus Domini. Nelle settimane precedenti si è lavorato bene anche per l'Ascensione, il Biker Fest e il ponte del 2 giugno, segnalano gli operatori. Qualche giorno di calma e poi da giovedì riprenderà il quasi tutto esaurito. Gli albergatori riescono a malapena a rispondere al telefono tra un check-out e l'altro. Arriverà l'ondata di italiani, ora che le scuole stanno chiudendo, e poi gli austriaci torneranno dal 1 luglio, quando ricominciano le vacanze a Vienna, e dall'8 luglio, data d'inizio delle ferie in Carinzia e altre regioni. Qualche criticità rimane per la ricerca del personale, ma la sensazione è che ci siano meno buchi in organico dell'anno scorso. Matteo Battiston, presidente di Confesercenti Lignano, indica che per le sue strutture si affida soprattutto al passaparola per reperire personale referenziato. Forse ci si è mossi un po' prima quest'anno, dice Martin Manera, presidente del consorzio albergatori Lignano Holiday. Diverse famiglie, vista la congiuntura economica, hanno spronato i propri figli a dare una mano al bilancio di casa, trovandosi un lavoretto per l'estate, aggiunge Manera. Abbiamo visto tanti minorenni in più che si proponevano quest'anno, aggiunge. Alla reception di un campeggio incontriamo Kevin, 17 anni, studia in un istituto turistico. È la sua prima stagione. Tra un cliente che arriva e uno che parte, ci dice che vorrebbe comprarsi la macchina e allora per quest'anno ha deciso di rimboccarsi le maniche. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Trieste le toccate delle crociere movimentano l'attività dei locali del centro e delle mete turistiche più tradizionali. In funzione dell'approdo delle navi bianche, anche le variazioni dell'orario ferroviario estivo, entrato in vigore oggi. Alle 10 ci sono già diverse persone in attesa alla stazione di Trieste. Sono soprattutto croceristi pieni di bagagli. Arrivano da tutto il mondo, hanno dormito a bordo della nave e aspettano il treno che dalla stazione li porterà verso Venezia e da lì in aereo verso il ritorno a casa. Il nuovo collegamento delle 10:16 è stato introdotto da Trenitalia nei fine settimana proprio per decongestionare la linea, che nei weekend è piena di croceristi che si sommano agli altri turisti e pendolari. Un treno da 600 posti che vengono ben presto riempiti. Trieste si attende un boom di croceristi per l'estate alle porte. Chi scende ci dice che è soddisfatto. Poche altre città sono così comode per imbarcarsi con le navi a pochi passi dalla stazione. E il treno ha pochi concorrenti, i bus sono più cari e l'orario di arrivo per il trasporto su strada è più incerto. L'altra novità dell'orario estivo è il collegamento che arriva a Trieste da Venezia alle 10:44, sempre solo il sabato e la domenica. Anche questo è pieno, soprattutto di turisti, per la maggior parte italiani, che sono scesi dalla nave MSC arrivata al porto di Monfalcone in mattinata, che hanno deciso di esplorare Trieste per qualche giorno. Di Via Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo un inverno che per il secondo anno di fila ha registrato precipitazioni sotto la media, il mese di maggio, secondo l'osservazione del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, ha registrato dati in linea con le serie storiche, almeno nelle stazioni di Ene Monzo e Cervignano, oppure con un deficit limitato al 15-20% a Cividale e a Udine. Per quanto riguarda le falde, nella pianura udinese occidentale, a fine maggio si riscontra un leggero recupero dei livelli, seppur inferiori anche al 2022 e alle medie del periodo. Nel comparto centrale, i livelli sono infine invece inferiori alla media, ma comunque migliori rispetto al 2022. Nel Gividalese, invece, i dati sono in deciso miglioramento rispetto all'anno scorso. 12:20 minuti, uno sguardo al tempo, cielo da variabile a nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, temperature delle 11, a Trieste 24,5 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 22 gradi, a Pordenone 25,5, a Gorizia 24,5, a Udine 24, nell'area montana a Tolmezzo 21, a Tarvisio 18,5, a Sappada e sul Piancavallo 16,5, a Forni di Sopra 18 gradi e in quota abbiamo 11,5 gradi sul Monte Zoncolan, 10,5 sul Lussari, sulla costa Lignano e Grado 25, temperatura del mare nelle due località 24 gradi. Queste le previsioni, dal pomeriggio variabilità con possibili rovesci e temporali locali, più probabili sulle prealpi e in pianura. Dopo il tramonto il tempo tornerà a stabilizzarsi su tutte le zone. Per domani sulla costa cielo sereno con bora moderata, in pianura in genere poco nuvoloso. Sui monti al mattino cielo poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio si avrà variabilità con possibili rovesci e forse qualche temporale, più probabili sulle prealpi carniche verso il Cadore. Anche sulla pianura pordenonese non si esclude qualche rovescio verso sera. La sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti sarà nel pomeriggio a Gorizia per l'inaugurazione del nuovo lapidario nel Parco della Rimembranza. Il monumento aggiunge nomi nuovi, un centinaio agli oltre 600 che erano già noti prima delle più recenti ricerche delle vittime dei partigiani titini deportati e scomparsi nel maggio del 45 tra Gorizia e Trieste. La cerimonia si svolgerà alle 18. Quale Europa per Gorizia e Nova Gorizia è il titolo dell'incontro che si svolgerà al Kulturni Dorm al Dom alle 17 per la presentazione del libro Guerra senza fine con l'autore Toni Capuozzo, che firma il volume con Francesco Borgonovo. Il punto sui conflitti in corso, sui nuovi equilibri e sulle prospettive di pace a partire dalla situazione in Ucraina, per riflettere più in generale su centralità della politica e diplomazia nella risoluzione dei conflitti. Ieri Capuozzo è stato a Udine per la Notte dei Lettori, manifestazione che si concluderà nella giornata di oggi. Gli spettacoli e il direttore della fotografia Ruben Impens per il film Le Otto Montagne, il vincitore del Quarzo di Spilimbergo, il premio del festival Le Giornate della Luce, lo ha deciso la giuria presieduta da Marco Risi. Oggi l'ultima giornata del festival, che vedrà tra i protagonisti il regista Gianni Amelio, alle 17 al Cinema Miotto la proiezione del suo ultimo film Il Signore delle Formiche. Più di 3.500 abbonamenti e 45.000 presenze per i cartelloni di prosa, musica, danza e lezioni di storia. Sono i numeri con cui va in archivio la stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Nel consuntivo reso noto dalla Fondazione anche i picchi al botteghino, con i 3 sold out consecutivi e 3.500 spettatori per Virginia Raffaele, ma anche i quasi 3.200 totalizzati dal musical Pretty Woman e 7 spose per 7 fratelli, in 3 rappresentazioni ciascuno. Nella musica, diversi concerti che hanno riempito il teatro, con il record di 1.200 spettatori per quello di San Silvestro. A breve verrà annunciata la presentazione del prossimo cartellone, a cura dei nuovi direttori artistici Fiorenza Cedolins per la musica e la danza e Roberto Valerio per la prosa. Al Teatro Verdi di Trieste torna l'operetta, stasera il debutto del Paese dei Campanelli, che sarà in scena fino a domenica prossima. Sul podio Andrea Albertin, la regia di Andrea Binetti. A Gradisca di Sonzo, alle 21 in municipio, ultima replica per lo spettacolo itinerante Noi non popolani nella stretta del popolo contadino. Omaggio a Pierpaolo Pasolini per la regia di Maurizio Soldà e voci recitanti dello stesso Soldà e di Fabiano Fantini. I testi di Pasolini, dedicati al Friuli, sono accompagnati dal gruppo strumentale della Scuola di Musica di Ruda. Altri spettacoli di oggi: a Casarsa della Delizia il Festival Giovanni Fabris propone il concerto del trio Anima Musices nel Parco della Chiesa di Santa Margherita in località Sile alle 19:30. A Trieste in Sala Luttazzi per il ciclo Una luce sempre accesa sul palco una decina di giovani musicisti provenienti da college e conservatori degli Stati Uniti e del Canada con un programma di musica vocale e strumentale da camera alle 20:30. Gli appuntamenti sportivi, basket, la nazionale femminile chiude a Pordenone e ritiro in vista degli europei in Israele, questa sera l'amichevole contro la Germania, si gioca alle 20 al Pala Crisafulli, l'ingresso è gratuito. Calcio, ai mondiali in Argentina, l'Italia Under 20 in finale contro l'Uruguay, c'è anche il gioiellino dell'Udinese Simone Pafundi, autore della rete decisiva in semifinale contro la Corea del Sud. La partita sarà trasmessa alle 23 in diretta Rai. È tutto per questa breve edizione domenicale che è stata realizzata da Daniele Lettige, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Giuliano Pecorari e Giampaolo Zucchi. Sono le 12.25, prossima edizione del GR regionale alle 18.30. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.